fare tutta la... Restoradio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Buonasera di nuovo, buonasera a tutti. Sabato 2 giugno del 2018, questo è il ristorante Convento di Nonato e questa è la web radio del ristorante Convento di Nonato. Si chiama Ristoradio Convento, che adesso si anima con tre fantastiche ragazze che però non sono le protagoniste della festa, ma sono qui per interposta persona, perché sono qui per festeggiare e fare i saluti e gli auguri a una loro amica, immagino, che sta festeggiando qui da noi. Allora, partiamo con le presentazioni. Ciao a tutti, sono Beatrice e sarò la testimone. La testimone. Della sposa. Beatrice, dovete sapere, io l'ho conosciuta un po' nei fuori onda, è una ragazza timida. È una ragazza molto timida, molto timida, molto timida. E vi dico una cosa, le piace il blu. Così. Le piace il blu, le piace il blu. Un colore a caso. Sì, direi. Le piace il blu, così io ho avuto questa. Un po' pizzato. Sì, dici, un po' pizzato. Io, allora, diciamo che le piace il blu, però non le pennellate quelle grosse, grosse, no, proprio così. A forma. Bravo, sfumato. A forma di triangolo quasi. Il blu così. Minimale, il mio il blu minimale. Preferito. La cosa che le piace di più è a forma di rondine, così. Così, ecco. Quello è proprio il massimo della sua vita, il blu disegnato a forma di rondine, così. Niente, questi è, insomma, ci piace anche in radio far conoscere un po' le persone che sono qui con noi, dare dei dettagli che magari nella vita normale non si possono sapere. Quindi, sei fidanzata, Beatrice? No, sono single, ecco. felicemente e single. Sono alla ricerca di una Ecco, perfetto. Quindi, se siete interessate a Beatrice, sappiate, a parte il numero di telefono, che poi ci lascerai, o meglio, mi lascerai, perché a loro non interessa diventare tue fidanzate. Dicevo, se siete interessate a Beatrice, deve piacervi il blu e la forma della rondine. Questo è un po' un trucco per conquistarla. Poi, chi abbiamo qui? Oltre a lei, chiaramente. Ciao, mi chiamo Giorgina e sono una delle migliori amiche della sposa. Questo lo dici tu, intanto. Cioè, solo una tua opinione. È una tua presupposizione e lì bisogna capire quanto è vero. Esatto. Ma Giorgina, il tuo nome è all'anagrafe? Eh sì. Bello. Perché sono nata in Venezuela. Sei nata in Venezuela ed è un nome che si usa tanto? No. Cioè, nel senso, un po' a caso. Nel senso, cioè, in Venezuela non è un nome tipico, però... I miei genitori hanno deciso di darmi questo nome. No, perché credevo che, siccome hai detto, sono nata in Venezuela, so, credevo però, c'entrasse con la, no, con la, con la zona, lo, no? Lo chiedono, però in realtà no. I miei genitori hanno deciso questo. Sei contenta? Nome. Sì. Di questo nome? Assolutamente. Te lo senti addosso? Beh sì, anche perché sono 1,60, quindi sono piccola, Giorgina ci sta. Bello! Bello! Brava, Dio! Applauso, questo mi piace. Beh, però tra l'altro ha una delle abbreviazioni e soprannomi più belli, perché Geo è molto bello, cioè molto d'impatto. Geo è molto d'impatto, anche se c'è il sospetto di Giorgia. Ah no, no, ma non di Geo, cioè anche Geo in Geo. Esatto, sì, ma anche il programma documentario di Rai 3. Però c'è il rischio Giorgia, perché Geo di solito è Giorgia, ma è bello come soprannome. E anche tu sei a caccia come la Bea? Sì, sono assolutamente a caccia. Ma a Sondrio è caccia aperta. Non ci sono neanche uomini. I caprioli, cioè i caprioli sono tutti nella tana perché cacciano solo loro. Esatto. Sappiate che ci muoviamo in coppia. Molto bene. Cioè? Io e lei. Ah, ok, cacciate insieme. Cacciamo in coppia. Ma la domanda che mi viene spontanea, tra l'altro lei la stiamo cagando tantissimo in tutto questo, ma poi arriviamo, ma anche da lei. Allora vattene. No, dicevo, la domanda importante è se la Geo, ad esempio, dovesse trovare il ragazzo e tu ancora non ce l'hai. Cioè, le dai il permesso di trovarlo perché vorrebbe dire che non andreste più in giro in coppia o dovete trovarlo anche contemporaneamente? Assolutamente sì, le darei il permesso, sarei felice per lei e so che lei farebbe di tutto per trovarlo anche a me. Che gioia, che gioia, ma che bello. Ecco, allora facciamo così, troviamo un accordo non scritto. La prima di voi due che si... Esatto, diciamo. La prima di voi due che oh, si... è la sposa, È la sposa, la Monica, come si chiama? Martina. La Martina, mi ricordavo. Martina, fai il giro che ti facciamo entrare. Facciamo entrare la sposa. Dicevo, facciamo un accordo implicito, la prima delle due che trova il fidanzato, siccome è impossibile trovarlo contemporaneamente per l'altra, l'altra si fidanza con me. Va bene, ci sentiamo, esatto, io disponibile da subito. Perfetto, ok. Niente, la sposa rischia di fare omicidi. Poi la troviamo, questo non è Chi l'ha visto, è un altro programma. Siamo in radio. Ah, ma siamo in radio. È un altro programma. Saluta. Teleunica. Teleunica, stiamo su Teleunica. Ma chi è che fa? Ma è uno scherzo o è vera lei? Ah, è vera? Tele unica. Ah, sì, tele... No, guarda, è questo qui. È il ragazzo fuori. Pelato. Sì. Allora, è tele unica. No, sì, sì, sì, beh, tele unica anche, la chiamiamo in intimità tele unica. E quindi è arrivata la sposa, signore e signori, Martina. La sposa, ragazzi. Assolutamente. Possiamo salutarti? È una cosa unica che rara. Puoi farti la foto? Cazzo, sono un'obesa di me. No, non dirla così. No, no, rimarrai lì. Dai, ragazzi, sono pure figa, sono 1,58 m. Precisi, cioè al centimetro sei misurata, al centimetro. È arrivata anche la sposa, la Martina. Dai, e fai la foto. Sì, tanto che va la foto. Io darei spazio anche alla fotografa in questo momento, visto che esatto, no, praticamente le è stato permesso di respirare perché per gioia. Adesso la mettiamo subito. Sì. No. Chiara, parlaci di te. Vai, no, beh, allora, tanto la facciamo salutare. Avete potuto capire, mi chiamo Chiara, io sono fidanzata. Sì, fidanzata, quindi, quindi la tua opinione ci interessa poco. Sì, infatti, non cagatemi. No, tra l'altro Chiara, che mi sembra un po' la controfigura di Amélie nel Magico Mondo di Amélie. C'ha un po' quel, non l'hai visto? Non l'hai visto il film? Ha no. Perfettamente ragione, confermo. Perché lei la Bea l'ha visto e rivisto. Io l'ho visto 95 volte, 95 volte. Assolutamente sì. Guarda il pezzo. Allora Chiara, raccontaci un po' di te, dai. Guarda, dai. Cosa vi devo raccontare? No, io voglio musica. Io no, ma tu non sei Chiara, tu sei Martina. Io voglio musica. Allora, musica, musica adesso. Così, mi sacrifico, mettiamo della musica per la no. Guarda, guarda. Guarda che roba. Guarda, guarda. Guarda che no, è la Chiara, eh. Oh, Chiara. È la Chiara, Chiara, vieni a vedere la Chiara. È Chiara, dai. È Chiara, è Chiara, è Chiara, è Chiara. Chiaro che è Chiara. E Martina, eccoci qui. Vai, Martina, vuoi salutare e dire qualcosa? Poi ti mettiamo la musica, promesso. Devi dire, questo devi va benissimo. In chi ti devi presentare? Sono Martina. Qua il microfono. Sono Martina Sciolini, mi chiamo così. E sono nata il 16 maggio del 1994 e mi sposo il 14 luglio 2018 con Mattia Marini, che è nato il 30/10/2084. No, 2084, cioè deve ancora nascere. Lei deve ancora nascere e lei già se n'è innamorata. Bellissimo, bellissimo questa cosa. 1994. È una cavia della NASA. È una cavia della NASA la Martina. È stata scelta per un esperimento scientifico. E allora ti ringraziamo. È incredibile. 84, benissimo. Allora facciamo gli auguri alla Martina. Devi sapere, che in questi minuti abbiamo parlato tantissimo di te. Le tue amiche ti hanno fatto dei complimenti incredibili. Non hanno parlato di loro, delle loro vite, di quanto li interessa cercare il moroso. Hanno parlato solo di te. Hanno parlato solo di te, di quanto sarà bello il tuo matrimonio. No, no, no, vero. Lo dico io. Lo dico io, ti hanno fatto bellissimi complimenti e abbiamo parlato solo della preparazione, del vestito, di quella, di come te l'ha chiesto quella volta lì, cioè bellissimo, di come vi siete conosciuti in quella serata speciale, bellissimo. È stato veramente un bel racconto, è stato veramente che avete l'anniversario vicino al compleanno, cioè vedi, vedi, vedi che so tutto, No, devi ringraziare loro. Che ti hanno presentato, hanno raccontato di te tante cose. Quello non è touch, non è touch. E va bene, va bene. Lei è una bambina, deve sperimentare. Deve sperimentare. E quindi da domani potrete risentire tutti i complimenti fatti a Martina sul nostro sito. Intanto io vi do la buonanotte, o meglio vi lascio andare a divertire ancora un po'. E vi ringrazio. Ciao. Ciao a tutti. Adesso andiamo a cercare la Kate, tutti insieme.